9 in punto. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buona giornata da Simone Spezia a parlare del paese. La grande crisi impone, insieme alla sofferenza inevitabile che comporta, grandi cambiamenti. Li sentiamo promettere quotidianamente dai candidati alle elezioni, spesso in forma di singole ricette. Le tasse, i tagli di spese, i diritti civili, ma l'idea è che al momento, la mia idea personale, prendetela così, è che manchi una visione del paese, ossia come lo immaginiamo, come lo si immagina questo paese tra 10 o meglio tra 20 anni. La realtà forse è che dobbiamo iniziare a cambiare noi, dobbiamo iniziare ad immaginarci fuori da queste pastoie, dalla vista corta, gettare uno sguardo al futuro, leggere alcuni esempi del nostro presente, come per esempio giovani imprenditori che ce la fanno grazie alla scintilla, all'idea, all'innovazione di prodotto, di processo, ricercatori che girano per il mondo, per l'Europa, non solo perché fuggono, ma perché sentono il mondo e l'Europa come la propria casa. O guardare ad esempi del nostro passato, grandi leader sindacali come Giuseppe Di Vittorio, grandi uomini di Stato come Donato Menichella, Luigi Einaudi, Ugo La Malfa e naturalmente Alcide De Gasperi. Tutti esempi questi dei giovani e anche delle grandi storie di uomini di Stato del nostro paese, presenti e raccontati in parte in un libro di riflessioni uscito per Rizzoli e firmato da Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Il libro è Promemoria Italiano e raccoglie alcune delle riflessioni apparse sul domenicale del Sole 24 Ore, sulla prima pagina del domenicale del Sole 24 Ore. Saluto i nostri altri ospiti che sono Vincenzo Cerami, scrittore, sceneggiatore. Buongiorno Cerami. Buongiorno. Buongiorno. E Paolo Pombeni, storico, politologo, insegna all'Università di Bologna, sarà con noi solo pochi minuti perché ha poi altri impegni. Buongiorno Pombeni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Inizierei naturalmente da Roberto Napoletano, visto che abbiamo deciso di partire proprio dal suo libro, e ti chiederei molto semplicemente se secondo te, anche tirando fuori qualcosa dalle storie che hai raccontato, questo paese ha effettivamente le risorse per farcela. Io vedo che aspetto le chiamate all'800 24 00 24, ma intanto già su Twitter ci scrivete, insomma, se lo Stato ci lascia in pace abbiamo le carte in regola per tornare grandi. O ancora, nessuna speranza per l'Italia, nessuna visione, nessuna capacità, nessuna idea, ci scrivete. Roberto. No, io dico che questo libro è nato per ricordare prima me stesso e poi agli altri, che l'Italia ha avuto uomini come De Gasperi, come Vanoni, come Costa, come Mattioli, ha avuto sindacalista coraggioso come Di Vittorio, quelli che io chiamo gli uomini del fare, cioè Donato Menichella e Gabriele Pescatori, spesso dimenticati. Cioè Donato Menichella, proprio governatore della Banca d'Italia, ha permesso alla lira di conquistare l'Oscar mondiale delle monete. Ricordo questa confidenza che è citata nel libro, lui si rivolge a Pescatore, l'uomo che ha presieduto la prima cassa per il Mezzogiorno, a non confondere con quella che è venuta dopo, che è diventata sinonimo di ruberia. La cassa di Pescatore era una struttura di 200 ingegneri che ha portato l'acqua in Sardegna, che ha fatto le opere, gli acquedotti, per cui oggi c'è l'acqua anche in Campania, che ha unito l'Italia con infrastrutture di base, una struttura che portò, che consentì di raddoppiare il prestito Marshall e di attrarre sui suoi progetti seri anche capitali esteri. Bene, ricordo questa frase che è citata nel libro, che in una sua confidenza Menichella si rivolge a Pescatore e dice in questo linguaggio mezzo foggiano e mezzo napoletano: «Aggio fatto tanta fatica per mettere da parte oro e valute buone, chisti non sanno come l'hanno consumata». Cioè, ho fatto tanta fatica per ridare credibilità, stabilità, per dare a loro, cioè alla nostra moneta, questi non sanno come sprecare tutto ciò. Ovviamente lui si riferiva al primo centro-sinistra, che sprecò molto meno dei governi che sono venuti dopo. Allora, perché ho voluto ricordare questi uomini? Perché questi uomini sono legati a una stagione stagione storica, che è quella del dopoguerra, quando intelligenza tecnica, riformismo cattolico e cultura laica si seppero unire e trasformarono in pochi anni un paese agricolo in una economia industrializzata. Ecco, per me è importante ribadire in un momento di sbandamento, quale quello attuale, che questi signori erano italiani. L'altra ambizione che ha questo libro, per cui nasce con il memorandum che io faccio la domenica, cioè guardando ai fatti di oggi con gli occhi e il cuore rivolti al passato, scavando anche un po' nei ricordi personali, e che è quella di far rivivere un po', diciamo, quello che io chiamo il pranzo della domenica, che c'era a casa mia, che era una famiglia meridionale numerosa, e quindi mi affido molto al racconto, per cui mio padre raccontava che, insomma, la domenica, tra una cosa e l'altra, lui era del 26, gli anni del liceo e dell'università erano a cavallo della guerra, dice, insomma, raccontava tranquillamente che per andare a scuola faceva 7 chilometri a piedi ad andare, 7 a tornare, si riteneva un fortunato, A perché andava a scuola, altri non ci andavano, B perché altri facevano più strada a piedi, e poi a casa, dice lui, non è mai mancato nulla. Bene, ecco, volevo dire che questa generazione, la generazione dei nostri genitori, per uno come me che ha 50 anni, sono quelli che hanno rifatto questo paese, quindi forse se ritroviamo un attimo quei valori e quei messaggi, quel modo di comportarsi, è difficile, però se riusciamo anche a trasferire ai nostri figli, se ce lo imponiamo, questo può essere sicuramente un contributo a capire come e quanto in profondità dobbiamo cambiare. Questa è la mia idea. Paolo Pombeni, appunto, perché poi ci deve lasciare, lei ha l'impressione, la sensazione che questa grande crisi che stiamo attraversando ci faccia ripensare e ritornare su quegli schemi e su quelle idee? Ci sono le risorse per tornare a quello spirito? Ma io credo proprio di sì, nel senso che altrimenti dovremmo rassegnarsi a essere una nazione che va a dissolversi, cosa che non mi sembra sia ancora il caso, per fortuna. È chiaro che noi siamo di nuovo di fronte a una enorme trasformazione. All'inizio del secondo dopoguerra il mondo era cambiato, erano crollate le grandi dittature, si andava verso un orizzonte molto diverso, il primato americano si era definitivamente stabilito, c'era da ricostruire proprio nel senso fisico, perché la gente vedeva delle macerie. Ecco, noi oggi non vediamo più macerie, anzi vediamo apparentemente una società, diciamo, in forma decorosa, anche se noi sappiamo benissimo che nelle pieghe di questa società c'è tanta miseria, ci sono tanti problemi, c'è il problema della disoccupazione giovanile che è enorme, eccetera, eccetera. Però come allora siamo di fronte a una sfida rispetto al futuro. Allora io credo che, come in tutte le grandi nazioni, bisogna fare tesoro della propria storia, dire ce l'abbiamo già fatta una volta in condizioni estremamente difficili, ce la possiamo fare questa volta in condizioni che sono altrettanto difficili dal punto di vista, diciamo così, culturale e strutturale, ma un po', per fortuna, per il momento un po' meno drammatiche dal punto di vista, diciamo così, banalmente materiale. Allora, prima che diventino drammatiche anche da questo punto di vista, dobbiamo avere quello che si dice nel linguaggio retorico, uno scatto di reni. A me sembra che, sia pure lentamente, questa mentalità si stia facendo strada. Pombeni, prima di salutarla, non è nuovo questo paragone, l'abbiamo sentito spesso nell'ultimo periodo, tra quello che si lascia alle spalle questa grande crisi e il dopoguerra e una vera e propria guerra. Lei ha detto macerie non visibili. Secondo lei gli effetti che poi ci sono praticamente al di là, no, appunto, degli edifici distrutti, delle vittime, sono quelli? Beh, insomma, io credo che sempre più la gente si stia rendendo conto di questo, perché naturalmente per un certo periodo noi abbiamo vissuto, chiamiamolo così, brutalmente sulle spalle dei nostri genitori, del risparmio, di quanto si era messo da parte. Però noi, se lei pensa solo a questo fenomeno enorme della disoccupazione giovanile, che in qualche misura tocca la maggior parte delle famiglie italiane, è una cosa che sta cominciando a far toccare con mano alla gente che il mondo è cambiato, no? Siamo per la prima volta, come si dice spesso, di fronte a generazioni che hanno la prospettiva di vivere peggio dei loro genitori, e questa è una prospettiva, insomma, diciamo che negli ultimi due secoli non si era mai verificata. Ecco, a me sembra che questa sensazione che porta anche a volte a delle reazioni insomma scomposte, penso a tutti i vari tipi di populismo che ci sono, ecco, questo tipo di reazione sta un po' crescendo ed è una cosa preziosa, nel senso che una politica intelligente può fare leva su questo per ragionare, mentre la politica non intelligente fa leva su questo per dire la colpa è sempre del diavolo, ci sarà la rinascita, basta buttare via questo, buttare via quell'altro e torniamo come prima. La politica intelligente può spiegare che no, non è così che si fa, come non è stato così dopo la seconda guerra mondiale nella ricostruzione, perché il populismo c'era anche allora, non è che allora non ci fosse, solo che allora c'è stata, per fortuna di questo paese, una classe politica molto consapevole di sé, pur nelle tensioni, nelle difficoltà, la quale ha saputo indirizzare il paese in questa direzione di realismo, che non vuol dire arrendersi al presente, ma che vuol dire costruire il futuro tenendo conto delle difficoltà che ci sono. Grazie Pambeni, buona giornata e buon lavoro. E adesso con Vincenzo Cerami, insomma, chiudiamo il giro, insomma, questo primo giro con Vincenzo Cerami, scrittore, sceneggiatore. Lei che impressione ha da questa grande crisi, insomma, la lezione del passato? Quanto può servire? Quanto la stiamo leggendo questa lezione del passato, o quanto invece tendiamo a dimenticarcene per un'attualità stretta e per una vista corta? Io devo dire che da parecchi anni assisto a un mutamento culturale italiano molto molto profondo, e questo mutamento è avvenuto lentamente, ma mano a mano che si veniva avanti si venivano tagliati i fili col passato, come se il passato non avesse quasi più nulla da insegnarci. Si è presa, si è imboccata una strada in discesa, si è andata velocissimi, non ci siamo mai fermati a pensare, e ci siamo lasciati catturare un po' dalle cose che ci travolgevano in qualche modo. Quindi il mio grande dubbio è che oggi ci troviamo, come diceva appunto Pasolini, in una realtà antropologicamente diversa, completamente distaccata da quella che era una volta. Tutto il sistema di valori, lo zodico di riferimento che ha guidato l'Italia dal dopo il fascismo, dopo la guerra, diciamo fino agli anni del benessere, vedi, tutto questo rimane ben poco. È un paese, il nostro, molto sbandato. Siamo stati i primi a diventare in Europa società di massa, per esempio, no? I francesi si sono difesi con il loro sciovinismo tradizionale, gli inglesi con le loro tradizioni, poi sono stati imperi, anche la Spagna è stata un impero, insomma noi siamo la nazione più giovane d'Europa, e nell'euforia anche del benessere ci siamo lasciati un po' travolgere da una mitologia che ci ha portato sempre più lontano dalla realtà reale, dai valori che in qualche modo tenevano questo paese, insomma, che lo hanno messo insieme nel dopoguerra e lo ha fatto rinascere. E noi è a questa Italia che dobbiamo vedere. Il libro di Napoletano ha questo dono in qualche modo, no? di ricordarci che nello sfascio generale ci sono sempre state delle menti, ci sono state delle persone disinteressate e veramente appassionate, che vivevano con umiltà la loro vita quotidiana, che la vivevano così, con semplicità, però erano guidati come da una speranza che non era vana, che non era vaga. Questa parte dell'Italia esiste ancora, secondo me, esiste, è nascosta, si dibatte, viene confusa, viene la voce di queste nuove voci che possono emergere, vengono soffocate lo vediamo tutti i giorni, poi la televisione ha fatto danni giganteschi. quello è il luogo della bugia. Quindi, il luogo... quindi la sostanza, Cerami, mi sembra di capire che lei dice che comunque queste energie, per quanto nascoste ci sono, io voglio prendere, iniziare a prendere le prime telefonate, iniziando da Yang, che ci chiama da Treviso. Buongiorno. Buongiorno, Yang. Prego. Buongiorno. Prego. L'Italia è un bel paese che deve farcela e può farcela anche, però finora ha dormito troppo sulle laurie proprio del Made in Italy, che era un appeal per tutto il mondo, che ha creato i vostri nonni. Però oggi come oggi bisogna ritornare a rimboccarsi le maniche e lavorare, perché io faccio il cambio in giro per l'Italia. La gente ha perso proprio la passione di lavorare. È la responsabilità che fa un grande popolo, e poi meno furberie e poi più rispetto delle regole. Lei da dove? Lei da dove? Yang, lei da dove? Yang, abbia pazienza. Lei io da dove? Sono originario del Senegal. Ah, ok. E da quanto è in Italia? Del Senegal. Sono ormai 23 anni. 23 anni ormai. E che cosa fa qua in Italia? Sì. Io faccio il camionista, faccio l'autista. Grazie e buona giornata. Sentiamo anche Giampaolo che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sono un imprenditore di 75 anni, con una grande famiglia, tanti nipoti, che ha vissuto tutta l'epopea dell'Italia che si risollevava. La mia impresa esporta il 100% oltremare, noi non abbiamo mai sofferto di crisi. Però devo dire che con Cerami sono perfettamente d'accordo, questo paese ha perso completamente la bussola dell'etica come paese, come gente, come genere, se noi non l'abbiamo più. La scuola è stata rovinata, il 68 ha distrutto quello che poteva distruggere, e i miei nipoti li ho dovuti, nella scuola pubblica naturalmente, selezionare la scuola pubblica perché potessero fare scuole severissime. Non ho mai consentito loro, né alle mie figlie né ai miei generi, di potersi districare con furbizia, però qui non c'è spazio per questo genere di etica calvinista, quindi io tutti i miei nipoti li porterò all'estero. Questo paese per me è perduto, sono d'accordo con Cerami. La maggior parte si è lasciata coinvolgere dalla morale levantina, che tutto va bene purché ci sia soldo facile, non c'è nessuna possibilità di discriminare tra il giusto e l'ingiusto, e basta vedere cosa sta facendo la classe media, basta vedere quelli che accumulano gli scontri della Nutella, delle tombole, sì, eccetera, che abbiamo, eccetera, che abbiamo sentito poco fa, per, sì. per nascondere prelievi truffaldini di ben altra natura, naturalmente, che sono anche cretini, perché la cosa spaventosa è che sono cretini. Giampaolo, grazie per il suo accorato intervento, e mi sembra chiarissima la sua posizione. Roberto Napoletano, mi sembra due belle telefonate, insomma, perché un imprenditore di quella generazione là e un nuovo italiano, nemmeno tanto nuovo poi, perché è qua da 23 anni. Ma diciamo che entrambi avevano ovviamente, dal primo e secondo intervento c'è una... come dire, una prospettiva, la prima più ottimista, la seconda meno ottimista, però quello che a me preme sottolineare è che in promemoria italiano c'è un racconto amaro della realtà di oggi, ma c'è anche come dire, la forte volontà di fare rivivere queste figure, se non altro per ricordare a noi stessi che erano italiani, quindi non sono diversi da oggi. È chiaro che il mondo è totalmente diverso, quindi nel libro si racconta, pensiamo ai Costa, che sono una grande famiglia, tra l'altro per capire basta pensare a quella nave capovolta, che non è nemmeno più dei Costa, quindi non è nemmeno più della famiglia italiana, ma il Costa di cui parlavamo noi, che è stato presente con lui, i figli dei Costa, che sono raccontati, andavano come dire a prendere il caffè tra i fuochisti, nella sala macchine, quando andavano in settimana bianca andavano dai gesuiti e nemmeno in albergo. È chiaro che è una stagione differente, è chiaro che è una stagione in cui si veniva dalle macerie della guerra. Quello che però diciamo nel libro si sottolinea, attenzione, le nuove macerie in molte famiglie, in alcune regioni, per gran parte della classe giovanile, sono ugualmente terribili. Ma c'è, io dico che sono il lavoro, per un certo periodo è stato a rischio anche il risparmio degli italiani. Oggi da questo punto di vista le cose stanno meglio, non bisogna illudersi, però diciamo la situazione europea ancora non è risolta, però diciamo che quella che è la vita delle famiglie, la prospettiva dei giovani, la difficoltà sotto gli occhi di tutti della domanda interna, la disuguaglianza che cresce, impongono delle riflessioni mature. Quindi abbiamo questi esempi del dopoguerra, abbiamo esempi anche più recenti, perché ci sono state stagioni importanti, penso al 93, penso al 92, penso al primo governo, diciamo alla partita vinta dell'euro. Tutti si dimenticano che noi abbiamo avuto, entrando per primi nell'euro, un lunghissimo periodo, un lungo periodo, anni e anni, in cui il nostro differenziale nei confronti dei bundi tedeschi era praticamente azzerato. Quindi abbiamo avuto anni e anni per fare quelle riforme strutturali che in parte bene, in parte in modo, come dire, solo accennato, comunque sbagliato, abbiamo fatto negli ultimi mesi. Quindi io credo che sia importante, il desiderio qual era? Quello di testimoniare alcuni modi anche di intendere la politica. Porto due esempi. La lettera di De Gasperi dal carcere alla moglie è una lettera su cui bisogna riflettere. Guarda, Roberto, ti interrompo perché è uno dei pezzi che avevo selezionato, che ho trovato affascinante e di estrema attualità. Se permetti, questa citazione la leggo io, una citazione di De Gasperi, appunto. Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione come dilettanti e altri che la considerano come un accessorio. Ma per me fin da ragazzo era la mia carriera, o meglio la mia missione. Insomma, molto, direi, di forte attualità. Insomma, no. Molto forte, perché se noi pensiamo al cliché diffusissimo, voglio dire, ovviamente non probabilmente anche a ragion veduta, cui oggi il politico di professione è considerato diciamo il peggio, e anche più abbiamo il dovere di ricordare che Alcide De Gasperi era un politico di professione. Alcide De Gasperi era un trentino che mise al centro della sua politica economica la coerenza meridionalista, cioè il dialogo con, se non riparte il Mezzogiorno non ripartiremo. E cioè, quando c'è una, lì ci racconta di una lettera che anche Rossetti a un certo punto si lamenta, perché De Gasperi fa un po' di testa sua nelle nomine, quindi c'è una lettera molto importante di Sturzo che gli dice: no, decidi con autonomia. Quando si tratta di scegliere il presidente dell'IRI, si fa il nome di Fanfani, si fa il nome di Senigallia, e lui dice: Fanfani era ovviamente un esponente politico del loro partito, e Sturzo dice: no, diciamo, tra un professore e un uomo d'impresa, trattandosi dell'IRI, credo che sia meglio un uomo d'impresa. De Gasperi non fece né l'uno né l'altro, ma in tutte le sue scelte mise sempre al centro la competenza, e quando la mise così tanto che financo Dossetti si lamentava, lui risponde: capisco, dice, è evidente che io preferirei uomini che hanno il nostro comune sentire, la nostra visione della vita, ma io devo governare questo paese, devo ricostruire questo paese, quindi se hanno la nostra visione meglio, ma se non ce l'hanno io comunque privilegerò prima la competenza. Ecco, questi sono piccoli passaggi in cui c'è tutto, c'è la politica che fa la politica, c'è il senso vero della politica, che non è altro che, come dire, la capacità di avere una visione, un disegno, ma anche la capacità di fare, di amministrare, Roberto, di realizzare le cose. Ecco, tutto qui. 9 in punto. Prima di andare agli altri ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24, voglio sottoporre a Vincenzo Cerami tre notazioni che ci sono arrivate di fatto una dietro l'altra invece via Twitter con l'hashtag 9 in punto. Ci dice, anzi due, ci dice un ascoltatore, Massimiliano, dice: dei valori del passato non è rimasto nulla perché chi li rappresentava non ha saputo educare i propri figli e questi faranno peggio. E ancora Dino ci dice: La generazione di prima ha fatto il paese, ma anche responsabile della mancanza di etica e di senso civico. Oh, lei che dice, è vero che qua forse parliamo di una generazione ancora precedente, insomma, rispetto a quella che c'è insomma, adesso in quelli che possiamo definire i ganghi del potere. Cerami. Sì, questo è indubbiamente vero, ma bisogna cercare una spiegazione a questo, perché non si tratta di malvagità gratuita in qualche modo, si tratta del fatto di aver in qualche modo sposato, accettato e promosso una cultura che è stata cieca e che però prometteva era per tanti anni civiltà e progresso sono stati sinonimi quasi, insomma, no? Mentre invece si tratta di due cose molto diverse, per cui magari abbiamo avuto molto progresso ma meno civiltà. Ecco, ciò che lega la civiltà al progresso è la consapevolezza di essere cittadini. Non dimenticare di non essere solo individui, di non essere solo isole o monadi, ma di essere anche cittadini, cioè far coincidere i propri interessi con gli interessi generali. Questo è mancato, e ha prodotto egoismi, ha prodotto chiusure, ha soprattutto fatto saltare, diciamo, la pedagogia. La pedagogia, anche la pedagogia legata alla memoria, legata al sapere, la memoria ha perso di valore, non ha più valore, non ha avuto per tanti anni valore d'uso. I padri non avevano granché da insegnare ai figli, spesso i figli addirittura ne sapevano di più. Io che so nella letteratura, insomma, che leggo libri, che leggo molti giovani, spesso per esempio i giovani quando scrivono sentiamo che c'è l'assenza della famiglia, sentiamo soprattutto che c'è l'assenza del padre, della figura paterna, non tanto della madre, ma il padre è scomparso con autorevolezza, come traguardo da superare, come qualcuno da superare, appunto, in cui si viveva in un mondo in cui appunto i figli poi avrebbero migliorato ciò che avevano insegnato i padri, ma quando i padri non avevano nulla da insegnare, certo i figli sono andati per conto loro, insomma. Questo è sicuramente accaduto. Il perché di tutto questo è molto profondo, è antropologico, francamente, è successa una vera e propria rivoluzione, questo è indubbio. E adesso io credo che questa crisi, malgrado le sofferenze, malgrado le disoccupazioni, malgrado il futuro che viene bruciato, comunque ristabilisce alcuni valori necessariamente. Adesso un pezzo di pane lo si butta con un po' più di con un po' più di attenzione. Quindi sì. Il pane riprende il suo valore, insomma, e anche la spesa che facciamo. Una crisi che ci cambia non necessariamente in male. E voglio chiarire all'altra un'altra ascoltatrice che ci dice che stiamo dicendo che oggi si sta peggio. No, non stiamo dicendo che oggi si sta peggio, stiamo dicendo che, insomma, poi anche da questo libro, questo Promemoria Italiano di Roberto Napoletano, emerge che ci sono una serie di esempi del passato dai quali si può riprendere per ragionare su una nuova ricostruzione. Voglio sentire qualche altro ascoltatore, a partire da Italo, che ci chiama da Brindisi. Buongiorno Italo. Sento, stavo ascoltando. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Allora, senta, no, stavo sentendo con interesse la vostra trasmissione. Io sono un imprenditore agricolo, chiamo da Brindisi, e in realtà questa crisi, cioè il fatto che dopo guerra c'erano delle speranze, c'era la possibilità, cioè chi aveva volontà, chi aveva voglia, poteva in realtà lavorare tranquillamente. Io con tutte le imprenditori, le cose, in realtà i vincoli burocratici, tutte il tartassamento, ma soprattutto la paura di avere controlli, di avere cose, era molto minore. Io parlo del mio settore come imprenditore agricolo. nella nostra zona c'è stata la totale desertificazione. Non perché gli italiani, è vero che gli italiani non hanno più tanta voglia di lavorare, ma in realtà se uno deve lavorare per fare debito non ne vale più la pena. E allora è la prima generazione di agricoltori, almeno nella nostra, nella mia zona, che non pianta, non fa piantagioni per la generazione che viene dopo. Gli uliveti non si piantano più, i vigneti non si piantano più. Cioè c'è stata una completa desertificazione e questa è colpa anche di una visione politica che non c'è. Cioè non hanno manca visione, manca visione del futuro, manca visione del futuro, dice lei. Manca totale visione del futuro e soprattutto si fa soltanto una politica di annunci o di qualcosa che poi chi vive nel settore capisce che sono soltanto chiacchiere, perché già il fatto stesso che noi vogliamo sponsorizzare il nostro agroalimentare quando la base non la produciamo più noi, voglio capire di che cosa stiamo andando a parlare. Grazie Italo, sentiamo anche Marco che ci chiama da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione, soprattutto per l'argomento, assolutamente pertinente, che ci fa sognare un po'. Una mission per il paese, sinteticamente, anche perché sono un po' emozionato, di solito non intervengo mai in trasmissioni televisive. E la mission per me è l'eccellenza. L'eccellenza in tutti i campi. Dobbiamo assolutamente mirare soltanto a questo, imprenditorialmente, turisticamente, con l'artigianato, con l'agricoltura. È una mission che può trovare comune denominatore tutti questi aspetti. Non possiamo pensare di produrre qualsiasi forma, qualsiasi prodotto, qualsiasi servizio con appena 60 milioni di abitanti rispetto a un mondo che potrebbe potenzialmente schiacciarci, cosa che è già fatto, in tutta la produzione di servizi e prodotti a bassissimo valore aggiunto. È un'utopia quella di poter fare, non so, elettrodomestici a basso costo piuttosto che televisori a basso costo, così come prodotti per l'agricoltura a basso costo. Noi dobbiamo esprimere soltanto prodotti di gran lusso e quindi di altissima qualità, in modo tale che nel mondo intero sicuramente troveremo quella fascia di popolazione che è sempre ricca ed è sempre disposta a comprare prodotti di altissima qualità. Sì, io ho l'impressione, Marco, in realtà che questa virata insomma stia avvenendo e in realtà in gran parte già avvenuta, insomma evidentemente ce ne siamo resi conto. 9 in punto. Hai sentito Roberto Napoletano? Molti stimoli mi sembra dagli ascoltatori, insomma, e anche da Cerami, no? Che insomma, riportava in campo la questione di quanto guardiamo, ce lo scrivono anche via Twitter, al nostro particolare, ci dicono ricordiamo Machiavelli ma dimentichiamo sempre Guicciardini. Roberto. No, sì, sono sempre due lati della medaglia, la stessa medaglia. Voglio citare sempre alcuni passaggi del libro, di questi racconti, perché forse aiutano a dare le risposte al ragionamento. C'è un fondo, come dire, di sostanziale perplessità, perché dice non ce la faremo, non siamo in grado, da un lato. Allora, vi ricordo, c'è Maccanico, che è un segretario generale Quirinale, ministro, che si torna da un periodo lungo negli Stati Uniti, è molto infervorato, va da Ugo La Malfa e dice dobbiamo fare una battaglia per abolire il valore legale del titolo di studio. La Malfa, Ugo, lo guarda, lo ascolta, poi dice caro Tonino non ti preoccupare, 4-5 leggi che hanno rovinato l'Italia le abbiamo già fatte, e la prima di queste 4-5 leggi è l'istituzione a suo modo di vedere delle regioni, perché secondo Ugo La Malfa si sarebbero rivelate come dei moltiplicatori di clientele di spesa pubblica e produttiva. Diciamo, forse ha ragione Ugo La Malfa con le sue profezie, si è meritato il titolo di Cassandra, bisogna dire che qualche volta ci ha preso, cioè diciamo il degrado e la difficoltà proprio anche civile da cui partiamo nasce da un certo modo di concepire non di tutti, ma sia la gestione della cosa pubblica sia la nostra partecipazione. Cioè, per una lunga fase il debito pubblico italiano permetteva a livello centrale di, come dire, trasferire sui conti della collettività qualunque nostro problema, il posto in più alle poste, il posto in più al ministero e via. A un certo punto è arrivato l'euro, è arrivato Maastricht e questo si è girato questo ostacolo, come dire, trasformando le regioni in nuovi uffici di collocamento. Questo è chiaro, che se cumuliamo questi errori, quindi se togliamo quelle due generazioni e pensiamo alle generazioni successive, è evidente che proprio questo esercizio culturale per cui ci siamo abituati a pensare che qualcuno risolveva il nostro problema, è vero che sono straordinariamente aumentati i costi della politica, io le chiamo vergognose noccioline, perché quello che, diciamo, la laurea a Tirana, le feste, gli spaghetti al caviale di Lusi sono una cosa terribile, se, pagati dai contribuenti, se pensiamo alle 300 lire che spendeva in trattoria di tasca sua Dossetti, quindi misurano l'abisso in cui siamo precipitati. La spesa pubblica e produttiva delle regioni è aumentata da 106-107 miliardi a 150, quindi le regioni che erano nate per diminuire la pressione fiscale, quello è successo, che è aumentata la pressione fiscale regionale del 50%. Voi vi domanderete, ma è diminuita quella centrale? No, quella centrale è aumentata del 30%. Perché tutto ciò? Perché è aumentata da morire la spesa pubblica improduttiva. Ecco, allora è chiaro che questo indica come spaventa, ecco perché io dico sempre che c'è una grande speranza, ma è un racconto amaro, perché documenta questi fatti. Però dov'è la speranza? La speranza è nella realtà e nel ricordo. Nella realtà, quando l'ascoltatore parlava delle eccellenze, bene, io concludo il libro portando l'esempio, parlando della Cina e parlando di imprenditori italiani che hanno scelto di investire sulla Cina, è importantissimo, forse non si è capito, oggi la Cina vive una situazione simile a quella che ha vissuto l'Italia dopo guerra, hanno un lavoro, due lavori, tre lavori, c'è una crescita enorme dei consumi interni, della domanda interna, vogliono consumare prodotti italiani, e c'è una, così, quasi una parabola, cioè Luigino Rossi, che racconto, e Mario Valentino, che hanno inventato i tacchi a spillo, uno era a Napoli, uno era alla Riviera del Bretta, che hanno avuto i primi grandi contratti americani, ricordo questo colloquio quando avevo 18 anni che vado a Rione Sanità, alla fine del Rione Sanità c'è questa grande azienda di Mario Valentino mi diceva e mi racconta che alla Miller dove lavorava il datore di lavoro gli mise un libretto da sedia in bianco, disse scriva quello che vuole purché resti qua, lui non scrisse niente, tornò in Italia, tornò a Napoli e lui mi disse, me lo ricordo perché ero ragazzo, mi colpì molto, a te sembrerà strano ma a me New York sembrava una città noiosa, quindi lui per esprimere la sua creatività aveva bisogno del Rione Sanità e di quello che rappresentava. Ebbene, Mario Valentino, l'azienda non è ai livelli di una volta, Luigino Rossi di Riviera del Brenta che ha inventato il tacchi a spillo ha venduto ai francesi, attenzione però, quella manualità l'abbiamo sempre noi, i francesi che hanno rilevato nella Riviera del Brenta quell'azienda, hanno investito nella Riviera del Brenta, hanno assunto nella Riviera del Brenta e la moglie di Luigino Rossi è socia di imprenditori cinesi che producono, che vogliono esportare nel loro territorio, nel loro immenso paese, la manualità italiana. Quindi ha ragione l'ascoltatore, dobbiamo, come dire, puntare sulle nostre eccellenze, quelle che ci sono riconosciute nel mondo, ma perché queste eccellenze continuano ad affermarsi abbiamo bisogno anche di quella voglia di rivincita, di quel gusto della fatica, di quella forza e quella decisione che hanno contraddistinto una volta l'Italia. Se una volta è successo possiamo sperare che riaccada, questo è il messaggio. Alfredo ci chiama da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma niente, io dico delle cose estremamente semplici. Io sono quarantenne, sono imprenditore, sono figlio di immigrati del sud degli anni 60, quando mamma Fiat chiamava a Torino e contrariamente a mio padre rischio e quindi faccio l'imprenditore. E, lo faccio in che modo? Cercando ogni giorno di ribadire a tutti i miei collaboratori un senso del dovere, perché non ci riconosciamo più in questo, perché abbiamo solo tanti diritti e dimentichiamo arriviamo alla cosa più importante, che sono i doveri. Io sono scoraggiato e lo sono stato fino a qualche mese fa, perché nonostante ciò che mio padre mi ha insegnato, quindi comunque di andare a votare sempre, io questa volta ero deciso a non andare a votare, perché ero veramente stufo, stanco, sfiduciato. Grazie a Dio qualcuno ci ha pensato a portare avanti una politica che è la mia politica, è la politica in cui mi sono sempre solo riconosciuto, che è quella del fare, e quindi sicuramente andrò a votare per la politica del non facciamo riferimenti, Alfredo, e poi mi viola la par condicio, e poi stiamo parlando di altro. Andrea ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Ma molto semplice, mi ha colpito l'intervento dell'imprenditore settantenne, perché mio papà era un imprenditore ma è morto quando avevo 20 anni. L'azienda l'abbiamo dovuta chiudere per la crisi e ho valutato di rimettermi da zero, da solo, separatamente alla mia famiglia. Questo per dire semplicemente che l'intervento che ha fatto l'imprenditore di 70 anni era mirato a una educazione che ormai si vede che non c'è più, ma neanche per la strada, cioè si vede come la gente apre il finestrino e butta la roba per la strada. Questa qui credo che sia il limite, l'esempio più pratico per poter vedere che spesso quando si va negli altri stati, chiaramente evoluti, ai quali noi tendiamo di far parte con la nostra genialità e con i nostri prodotti di alta qualità che sono stati ricordati, ben ricordati in questi minuti passati, noi non abbiamo, facciamo fatica, abbiamo una base che fa fatica ad arrivare in Italia a mettere le basi per una cultura veramente dedicata al rispetto e soprattutto alla visione futura e a un investimento futuro. Se uno va a vedere l'intervento che ha fatto l'ultimo ascoltatore, che era schifato, da quello che gli si proponeva tra 20 giorni di votare, perché tutto quello che vediamo è lo schifo, è la spazzatura buttata giù dal finestrino. Grazie Andrea per le sue valutazioni. Roberto Napoletano, abbiamo un minuto e mezzo al massimo per chiudere. Molte sollecitazioni sull'etica e il senso del dovere che si sono persi. Ti dico solo che il libro inizia citando una canzone che per me è bellissima, è una canzone di Lucio Dalla, di Telefonami tra 20 anni, ed esprime con questa citazione l'auspicio che non succeda nel 2032 quello che è accaduto nel 2012 rispetto al 92. Nel 92, come tutti sappiamo, c'è stato Mani Pulite, 20 anni dopo siamo costretti a constatare che la corruzione non è diminuita, anzi è aumentata. Prima si rubava di più per i partiti e meno per le persone, oggi si ruba ancora per i partiti ma ancora di più per le persone. E tutto quello che è emerso da questi interventi dimostra l'abisso in cui siamo sprofondati. Esplorare questo abisso è obbligatorio, cogliere dentro questo abisso e dentro questo precipizio tutto ciò che ancora c'è di positivo, che esiste, ricordarsi quello che siamo stato, forse possono rappresentare messi insieme la speranza, perché nessun paese può rinunciare alla speranza, nessun paese può perdere e deve perdere la memoria della sua storia, perché attraverso la memoria della sua storia può e deve recuperare l'orgoglio, che è la premessa per ripartire. Questo è il senso, secondo me, del libro. Grazie a Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, col suo Promemoria Italiano edito da Rizzoli. Grazie a Vincenzo Cerami, scrittore e sceneggiatore, che negli ultimi minuti abbiamo abbandonato, c'era poco spazio, volevamo dare un po' di spazio agli ascoltatori. Grazie a Franco Piantanida in assistenza, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, Rosa Eleonora e Sabrina al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9.